Innanzitutto i numeri: sono oltre 2700 i contagiati, più di 270 i guariti, 107 le persone morte e trovate positive al coronavirus. Il tasso di letalità è intorno al 3,4%. Quello a cui tutti guardano adesso sono le norme varate ieri dal governo, a partire dalla chiusura delle scuole da oggi fino al 15 marzo in tutto il paese, la sospensione di qualsiasi manifestazione, appuntamento culturale, proiezione cinematografica, evento sportivo nei quali non si sia in grado di assicurare la distanza di un metro tra le persone. Le porte chiuse per il calcio. Cresce intanto il numero di casi in Corea, Francia, Germania, Stati Uniti, dove si contano 11 morti. C'è altro? Sì, ancora quello che succede sul confine turco-greco, con la pressione dei profughi, l'Europa che chiude, il movimento di estrema destra Alba Dorata che mette in atto raid alla frontiera. E c'è l'accordo su Ilva, una tregua in sostanza tra governo e ArcelorMittal. Una tregua con la quale ci si dà tempo fino a novembre. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, eccoci dunque alle 6:31 minuti di questo giovedì 5 marzo. Un giovedì 5 marzo nel quale molte famiglie, e quelle della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna erano già abituate, molte famiglie si sono trovate con le scuole improvvisamente chiuse di qui al 15 marzo. E speriamo che si fermi là. Però sarà tutto da valutare. Chissà come vi state organizzando, eh? Chissà come si sta organizzando Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, che come me ha tre figli e mani nei capelli. Francesco, buongiorno, ciao. Buongiorno, ma io sono di Lodi. Ah, tu sai, vabbè, allora basta, allora sì, basta. Mi abito a Lodi, nel senso questa cosa ormai la stiamo vivendo da settimane, perché è la seconda settimana questa e la prossima sarà banalmente la terza settimana di fila in cui i miei figli non vanno a scuola, sì, e in cui io faccio smart working, e quindi in qualche modo, cioè, si genera questa convivenza, poverini loro in realtà. Sì, poverino tu, chissà come si lavora con tutti intorno. Quanti anni hanno, Francesco? Hanno 9, 7, 5 anni e devo dire, sarei ingeneroso se dicessi che mi stanno creando particolari problemi. Poi ovviamente mi dispiace per loro che non vanno a scuola, mi dispiace che in qualche modo debbano fare i compiti anziché stare con i loro compagni di classe. È tutto estremamente noioso, però ieri sono andati con altri amichetti a giocare nel fango con gli stivaloni e i kiwi, quindi sono tornati contenti dal pomeriggio. Vabbè. E soprattutto stanchi, perché la cosa fondamentale è stancarli a quell'età. Allora, Francesco, adesso veniamo alle cose più dense della giornata di ieri, al di là dei nostri problemi personali della gestione dei figli, ma diteci anche voi, al 349-238-6666 via sms, messaggi su WhatsApp, anche audio. In qualche modo siamo cronaca, Simone. No? Ah beh sì, su questo non c'è dubbio. Su questo diventa quello che è cazzeggio, no? Quello sì, che si parla. Di solito queste cose ne parliamo privatamente, sono fuori da quella che è la traiettoria della cronaca del paese. In questo momento diventa cronaca reale, perché ci troviamo di fronte a un lockdown, a una serrata del paese, a una quarantena che in qualche modo ci accomuna tutti, sì, nel dover gestire una situazione totalmente anomala. Sì, assolutamente, ci siamo tutti dentro. Dunque, 349-238-6666, gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, anzi soprattutto audio, la vostra voce fatecela sentire, come vi state organizzando, come gestirete queste due prossime settimane, questi prossimi 10 giorni di chiusura delle scuole, come pensate di organizzarvi, cosa pensate che debba fare il governo, perché qua già si inizia a pensare alla possibilità che le persone vengano sussidiate per le loro assenze dal lavoro per poter rimanere con i figli, insomma. Comunque, giornata di ieri con questa vicenda delle scuole chiuse un po' a dominare la scena, oltre ai numeri che vi abbiamo fornito poco fa, gli ultimi aggiornamenti della Protezione Civile sul coronavirus. Il Presidente del Consiglio Conte sulle scuole chiuse. alla luce degli elementi sin qui acquisiti, abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività, come ha riassunto la ministra Azzolina, sino al 15 di questo mese, lasciando ovviamente poi tutte le valutazioni, le elaborazioni al Comitato Tecnico Scientifico di valutare nel frattempo come si sta evolvendo questa crisi e poi faremo le valutazioni finali. Ho detto che il Comitato Tecnico Scientifico suddetto non è che abbia detto dovete chiudere le scuole, anzi ha detto non ci sono evidenze scientifiche che questo possa effettivamente servire, e che non vuol dire non va fatto. È chiaro che è una misura precauzionale in più, però il Comitato Tecnico Scientifico non ha espresso un parere specifico su questo argomento. Di certo sembra che la preoccupazione principale del governo in questo momento sia il Mezzogiorno. E perché? Adesso l'emergenza ha colpito delle regioni del nord con una sanità in ordine, tutto sommato. Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, sempre valutate come eccellenze di questo paese dal punto di vista della gestione della sanità. Immaginate una situazione simile a Codogno in Calabria. Non me ne vogliono i calabresi, è proprio una questione di gestione sanitaria, di condizione del sistema sanitario. C'è stato un supplemento di polemica, insomma, sul tema della comunicazione della chiusura delle scuole, perché sono circolate voci da Palazzo Chigi, poi la ministra dell'istruzione Azzolina l'ha smentite, poi la cosa è stata confermata, insomma, anche su questo interviene Conte. L'orientamento del Consiglio dei Ministri è stato quello di disporre via prudenziale la chiusura delle scuole. Però ci siamo anche detti, attenzione però, su questo, alla luce dello scambio informativo che c'è stato, demandiamo al professor Brusaferro di ritirarsi col Comitato Tecnico Scientifico per un approfondimento specifico sul punto delle scuole. Ecco perché abbiamo impiegato un po' di tempo. Ci è arrivata questa valutazione tecnico-scientifica da poco. Appunto, la quale però non è che contenesse proprio l'espressione chiudete le scuole. Spero riaprano presto, dice la ministra dell'istruzione. So che è una decisione d'impatto. Come ministro dell'istruzione io ovviamente spero che i miei alunni tornino al più presto a scuola e mi impegno a far sì che il servizio pubblico essenziale, seppur a distanza, venga fornito a tutti i nostri studenti. Abbiamo chiesto un commento al presidente dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio e anche ex presidente, ex vicepresidente dell'Associazione Nazionale, Mario Rusconi. Sentiamo che ci ha detto, va. Nelle scuole sono sospese le attività didattiche degli studenti fino al 15 marzo, ma rimangono aperte per i presidi e gli impiegati. Noi confidiamo che anche i docenti, opportunamente sensibilizzati, possano organizzare attività di didattica a distanza, utilizzando eventualmente i laboratori scolastici, le aule con le lavagne multimediali, persino il registro elettronico di cui tutte le scuole dispongono da anni, entrando così nelle pagine web messe a disposizione dal Ministero dell'Istruzione insieme all'INDIRE. È importante che in momenti di gravi difficoltà come l'attuale, la scuola possa offrire agli studenti delle opportunità di approfondimento, di colloquio, dando una dimostrazione di generosità professionale ed umana che da sempre ritengo pervada gran parte della comunità scolastica del nostro paese. Una lezione dobbiamo comunque apprendere in questi momenti difficili. È necessario snellire le procedure burocratiche che avviluppano la scuola. Va bene, però bisogna vedere quanti insegnanti sono pronti ad attivare queste procedure. È un temone questo, un tema enorme, enorme. Ci sono degli splendidi esempi, però. Più in generale, ecco, poi su questo fronte c'è anche la ministra della famiglia Bonetti, no? Che annuncia un sostegno alle famiglie. Con la chiusura delle scuole dobbiamo prontamente dare una risposta ai bisogni e alle domande delle famiglie italiane. Ho proposto due misure, una per il sostegno economico delle spese per le babysitter che le famiglie hanno sostenuto e dovranno sostenere e una seconda misura per l'estensione dei congedi parentali di chi dovrà rinunciare al lavoro per stare a casa per la cura dei figli. Io ho l'impressione che non basti, perché innanzitutto devi trovare la babysitter che ti viene a casa in questo periodo e non... per nulla facile, mi pare. E poi la questione dei congedi parentali riguarda chi ha figli più piccoli, ovviamente, no? Chi ne ha un filo più grande diventa più difficile. E in più, insomma, se poi al lavoro ci devi andare, se il lavoro prosegue, non è facile, non è così semplice. Tra l'altro il congedo parentale, è, come sapete, esaurito il tempo obbligatorio, prevede uno stipendio al 30%, quindi diciamo non è che tutti se lo possono permettere. Sarà sicuramente tema di discussione, questione da affrontare nei prossimi giorni. Più in generale, insomma, Francesco, nel giro di due settimane ci siamo trovati da una situazione di sostanziale calma a, direi, un delirio quasi completo. Sì, faccio due considerazioni preliminari, una piccola parentesi. Ci pensiamo sempre, e è un tic di tutti i governi, che tutti i lavoratori italiani siamo lavoratori con contratti a tempo indeterminato, contratti di lavoro dipendente. In realtà c'è una marea di atipici, partite IVA, freelance, cioè questo è un paese, diciamo, però come cavolo fai a pensare che risolvi tutto con i congedi parentali, che sono una misura per lavoratori dipendenti? Quindi a volte mi sembra veramente che chi ci governa non abbia la minima idea di quello che sia il mercato del lavoro italiano. Oh, Francesco, scusa, ti interrompo solamente per aggiungere questo. Diamo la massima attenzione esattamente alle partite IVA e agli autonomi, che in questa fase, a prescindere dal fatto che abbiano figli oppure no, sono quelli che rischiano di pagare il prezzo più alto della crisi che deriverà dal coronavirus. Questo ricordiamocelo bene, perché i dipendenti, insomma, sì, chiaramente c'è un rischio che riguarda le aziende, ci sono dei rischi di fallimento, tutto quello che sappiamo. E però il livello di tutela è più alto per quanto riguarda le partite IVA, gli autonomi, dagli NCC ai tassisti, salendo di livello, no, in termini di professione intellettuale, il problema sarà là. Comunque, prego, Francesco, prosegui. No, sono, tu dici giustamente, in meno di tre settimane siamo passati al delirio più totale. In realtà c'è una razio in quello che sta facendo il governo, e aggiungerei finalmente c'è una razio. L'idea di fondo è quella di abbassare il punto di massimo contagio e allontanarlo nel tempo per aumentare i posti letto in terapia intensiva. Tu dici l'obiettivo è evitare che il contagio si espanda in meridione, sì, aggiungo io, evitare che si espanda nelle metropoli come Milano e Roma, perché sono i due luoghi che potrebbero far schizzare in alto il punto di massimo contagio. La dico in termini ancora più prosaici, dobbiamo evitare che tutti si contagino nello stesso tempo, perché se abbiamo tantissimi contagi nello stesso tempo non abbiamo abbastanza posti letto in terapia intensiva, che vediamo che in terapia intensiva ci finiscono il 10% più o meno dei contagiati per curare le persone. In questo caso, questo virus sappiamo che come complicazione principale ha polmoniti virali che hanno bisogno di 13-14 giorni di ospedalizzazione e di terapia, e se abbiamo 5.000 posti letto in terapia intensiva in tutta Italia e siamo già a 2.000 contagi, quindi a qualche centinaia di persone in terapia intensiva, insomma, dobbiamo evitare in qualche modo il numero magico, evitare di arrivare a 50.000 sì. contagi tutti assieme. Sì, quindi, è un... Francesco, riduci i contatti sociali, per sì. farlo adotti quelle misure un po' strane di mutamento, se non un po' cinesi, di mutamento delle abitudini individuali, per farlo provi a in qualche modo a consigliare ai 75 e 75 anni, che sono le persone che forse necessitano di più di terapia, a non uscire di casa. Cioè, è tutto un po' strano, è tutto un po' ma ha una sua logica. Sì, ed è una grande chiamata, mi pare, tutto questo, alla responsabilità individuale degli italiani. È un elemento culturale da non sottovalutare. Vedremo come funzionerà, perché abbiamo qualche piccolo esempio di gente che fugge dalla quarantena per andare a sciare, ragazzi. Insomma, roba che non sta né in cielo né in terra. E però è una grande chiamata alla responsabilità individuale, il come ci sapremo comportare. Parlavi del Servizio Sanitario Nazionale, Conte ne ha parlato ieri esattamente di questo tema, sentiamolo. Una certa percentuale di persone contagiate necessita di un'assistenza continuata in terapia intensiva. Questo significa che finché i numeri sono bassi il Sistema Sanitario Nazionale può assistere efficacemente i contagiati, ma in caso di crescita esponenziale è evidente che non solo l'Italia, ma nessun paese al mondo potrebbe affrontare una simile situazione d'emergenza in termini di strutture, posti letto, risorse umane richiesti. Traffico. Mattino. Non vedo tutto questo problema per le scuole, anche se stanno chiuse un mese o due, invece di finire a maggio, finiranno a giugno, a luglio. Non capisco perché bisogna chiudere le scuole nelle zone gialle e nelle zone che non sono né gialle né rosse, quando la gente va a lavorare tranquillamente. Cioè, non riesco a capire la motivazione. Praticamente loro hanno creato una norma chiudendo le scuole a salvaguardia della salute dei bambini, e questo è giusto. È anche vero che non hanno fatto niente riguardo alla salvaguardia dei miei genitori, perché io lavoro in un posto dove mi hanno imposto di stare non meno di un metro dai clienti, però poi uso l'ascensore insieme al cliente. Questo è una chiamata appunto alla responsabilità individuale anche delle aziende, delle norme che le aziende devono imporre all'interno, no, all'interno, questa famosa distanza di un metro. Sul tema è quello che ha sottoposto il primo ascoltatore, è un tema enorme, perché un po' tutti non riusciamo a capire se si perde un mese di scuola perché non si possa proseguire almeno un altro paio di settimane. In tutti i paesi normali le scuole durano tutto giugno, ok? Quindi non si vede perché da noi si debba smettere a fine maggio o inizi giugno. Se questa volta hai bisogno, lo fai, punto. Però, insomma, evidentemente no. Da quel che leggo anche dai giornali, pare che questa ipotesi non venga al momento presa in considerazione. C'è tutta la questione calcistica. Ragazzi, ci hanno devastati in questa settimana, ci hanno devastati. Porte chiuse, porte aperte, domenica e lunedì, e no, la settimana prossima e si gioca, quando si gioca il campionato falsato. Su. Alla fine deve arrivare il governo, forse su questo l'intervento ci sarebbe voluto un attimo prima, e dice basta, porte chiuse, lo dice il ministro Spadafora. Sullo sport sicuramente cercheremo di contemplare il prosegue tutte le attività e anche del campionato, però nel rispetto della salute per tutti, per cui si va verso questo tipo di provvedimento. Un ascoltatore dice che il campionato di calcio è già concluso, quando un calciatore risulterà positivo, e purtroppo succederà, metteranno in quarantena tutti quanti. Sa che cosa succede se avviene in questa settimana? Che si completa con la Juve che diventa campione d'Italia, perché l'ultima giornata completa vedeva la Juventus in testa. E hai voglia a giri sul complotto? Accuseranno Agnelli di aver messo in giro il coronavirus. Va bene, va bene. E c'è tutta la questione dell'economia, naturalmente, che ha a che fare, per esempio, anche con l'agricoltura. Alberto Bertin, di Coldiretti Veneto, buongiorno. Ce l'abbiamo, Bertin? Buongiorno. Sì, sono qua. Eccolo, buongiorno salve a lei e a tutti. Eccolo qua. Avete detto nei giorni scorsi che rischiano di mancarvi 65.000 persone, 65.000 immigrati che in Italia, vista la situazione, non ci vogliono venire più. Certo. Il dato è calcolato sugli anni precedenti e sappiamo che in Veneto la manodopera italiana è straniera, appunto. Vabbè, però con questa, no, con quest'audio non si può. Aspetti, Bertine, proviamo a recuperarla, perché sennò non riusciamo nemmeno a parlare con lei. Andiamo un attimo all'estero, facciamo così nel frattempo. Sentiamo questa direttrice della sanità della contea di Santa Clara in California. California che ha dichiarato l'emergenza per il coronavirus. Sentiamo un passaggio di audio. Today start working on not touching your face because one. Allora, guarda che è stupendo questo video, perché c'è lei che dice, tra le raccomandazioni c'è di non toccare la vostra faccia, no? Come l'avete sentita, la raccomandazione viene data a tutti. Ma nel frattempo, girando le pagine dell'ordinanza, lecca il dito e gira la pagina dell'ordinanza, e quindi fa esattamente il contrario di quello che dice, e di quello che annuncia. E nel frattempo Donald Trump dice: guardate, questo tasso di letalità al 3,4%, a me non risulta, amici miei, quello che ho sentito, le persone che ho consultato mi dicono un 1%. Sentiamo. And it's not good, especially it's not good with something like this. You know, they can say it about certain things, but this one everybody has to pull together. And not all Democrats have done that. I must say, lately I noticed that it's gotten really a lot less. I would say, insomma, 50%, eccolo qua, less. Eccolo qua. Anche Trump. Alberto Bettin, l'abbiamo recuperato, vediamo se. Eccomi. Speriamo che l'audio regga, che la telefonata regga. Insomma, ci dica un po' di questa carenza di gente che avete, ci racconti un po'. Sì, abbiamo notizia che proprio col coronavirus i paesi, anche comunitari come stanno richiamando nel proprio paese i lavoratori stranieri. Lei consideri che per noi la voce è un 60% dell'occupazione. Il 60% dell'occupazione, sì, è composto per l'agricoltura veneta. Sì, su 65.000 occupati, il 60%, quindi circa 40.000, sono stranieri. Di questi stranieri, ad esempio, oltre 22.000 sono però continuiamo ad avere un problema di audio. Vabbè, il problema mi sembra che l'abbiamo rappresentato, però con Bertin non riusciamo a parlarci. Allora, Francesco Cancellato, abbiamo anche questo aspetto qua, degli immigrati. Coronavirus che manda in crisi le linee telefoniche. Che manda in crisi le linee telefoniche e appunto il lavoro nei campi. Sì, il tema economico è un tema fondamentale. Il problema di fondo è che forse siamo il paese che meno si può permettere una recessione, che in qualche modo ci troviamo come quei paesi, non so, io ho fatto un esempio un po' drastico, tipo la Polonia nel 1938, che ha i sovietici che attaccano da una parte e i tedeschi dall'altra, cioè siamo nel mezzo di una crisi sanitaria, di una crisi economica, e non sappiamo dove sparare per sparare la prima cartuccia. La sensazione però è che ci sia un tema temporale, nel senso che una recessione oggi, una piccola recessione oggi potrebbe evitarci, diciamo, guai peggiori domani. Noi forse una piccola recessione riusciamo a reggerla con ammortizzatori sociali, con maggiore flessibilità, magari veramente diciamo patendo dei grossi problemi. Noi ricordiamolo che tutti i soldi che ci servono per ovviare a questa emergenza dobbiamo prenderli in prestito, e abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa, questo lo sappiamo, i tassi di interesse peggiori d'Europa, lo spread peggiore d'Europa occidentale, ovviamente che c'è esclusa, forse addirittura per alcuni titoli di Stato siamo anche, diciamo, con lo spread peggiore della Grecia, e quindi ci costa molto prendere soldi in prestito, e che dobbiamo prendere già 28 miliardi per disinnescare le clausole di salvaguardia. Quindi questo è un grosso tema. Il secondo tema è che abbiamo un'imprenditoria piccola, sottodimensionata, sì, sottocapitalizzata, e un sistema bancario in qualche modo che ha già in pancia tantissimi crediti deteriorati. Quindi il lockdown delle attività di 2, 3, 4 settimane per le nostre piccole imprese non è come il lockdown di 4 settimane per Siemens o per Volkswagen, cioè, sì, sente, perché ovviamente i flussi di cassa sono diversi. Quindi in realtà il sistema economico si fonda su queste due gambe: la mancanza di denaro da parte dell'attore pubblico e le gambe, diciamo, fragili della nostra economia. Bisognerà vedere in qualche modo quanto l'emergenza sanitaria consentirà, diciamo, necessiterà di sacrifici da parte sia del settore pubblico che da parte delle piccole imprese. Sì. Questa condizione dovesse permanere nel tempo, andrebbero in difficoltà. Le piccole imprese sono veramente forse il classico anello debole di questa catena, sì, di solidarietà, che dobbiamo di responsabilità che dobbiamo mettere in atto. Sì, su questo ci sono un po' di proposte di Confindustria, poi ne parleremo più avanti anche nel corso della rassegna stampa che sono state appunto diffuse ieri dalla stessa Confindustria. Oh, Chiara da Treviso dice: io ho risolto mettendo a lavoro mia figlia quindicenne, le faccio sistemare l'archivio del mio studio, che così allora, la mattina studia con video lezioni, cose di questo genere, il pomeriggio sistema l'archivio dello studio. Però attenzione Chiara, questo è sfruttamento del lavoro minorile, mi sa. Le vostre soluzioni anche al 349-238-6666 via sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, anzi soprattutto audio, la vostra voce, fatecela sentire. Non ve l'ho detto ma lo sapete che siamo anche in diretta su Facebook e quindi ci trovate, ci potete vedere anche là. Siamo su Instagram, su Twitter, abbiamo spazio per gli ultimi 30 secondi? Beh, il ritiro di Bloomberg, Carmelo, vai. Well, after yesterday's results, the delegate math had become virtually impossible and a viable path to the nomination just no longer existed. And I will not be our party's nominee. But I will not walk away from the most important political fight of my life, and I hope you won't walk away either. I've always believed that. Insomma, endorsement a Joe Biden da parte di Michael Bloomberg, che, come abbiamo raccontato ieri, è riuscito ad ottenere solamente il voto delle Samoa. Dopo tutta la scena, i soldi messi in campo, solo le Samoa hanno votato per Michael Bloomberg alle primarie del Partito Democratico. Grazie Francesco Cancellato, vice direttore di Fanpage, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.